mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza, mancanza di solito quasi non ha importanza. Io non mi sono fermato. Anni 90, c'era rap, nostalgia degli anni 80. Di Maria sentivo parlare solo alla santa, messa in piega permanente, Baywatch. Crescevano le tette su bionde perfette, motorino a palla, sotto le stelle, parking rabbit nelle orecchie, cazzo se eran belle. Litri di birra, zero minigonne, concerti, zaino in spalla e fuori tutta la notte. Chi non balla, sballa, sognando California. Siamo in Italia, cazzo che sbornia. Ok, domattina falsifico e resto fuori. Non ho ticket per il bus, fanculo i controllori. Prendo la vita, la lavo, la butto nel cesso. Io per te ero un fesso, sì ma guardati adesso. Mentre io lavoravo con sottofondo Nirvana, tu pagavi una puttana più pazzo di cocaina. E adesso, mister fesso che si dà il cesso, non ho rancore e godo se molti balli sto pezzo. I 90 son passati e io stavo nel mezzo. I 90 son passati e io ho pagato il mio prezzo. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza. Io non mi sono fermato. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza. Io non mi sono fermato mai. In un mondo dove il soldo fa soldo, resti affamato tipo di hamburger poldo. Nei 90 eri ragazzino ribelle, adesso giri comodo nella tua giacca in pelle. Ma quello che conta è il cuore che c'è sotto. Rotto mi sono di tuoi consigli a vuoto. Rendere conto di tutto ciò che incontro, chiamami stronzo, ormai saluto te l'ho tolto. 90 come i libri che non avrei letto, 90 come i viaggi che non avrei fatto. Da 90 se la paura mi avesse fermato, ma io non mi sono fermato. C'ho la mente capiente ma non capisco come tu possa andare in giro con lo sguardo fisso. Con paraocchi da ronzino io non ci resisto. Mi rontano, anzi no, si gonfiano. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza. Io non mi sono fermato. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza. Con la voglia di cambiare il mondo, con colpi bassi il mondo mi ha cambiato, ma un fine in fondo. C'ho un pensiero fisso in testa e lo vedi chiaro e tondo, che io non mi sono fermato. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza. Io non mi sono fermato. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza. Io non mi sono fermato. Anni 90, guardo fuori dalla mia stanza, una speranza, luce fredda che mi dice avanza. Mancanza di solito quasi non ha importanza.